storie italiane. La tartaruga e l'avvoltoio. C'era una volta, nel cuore della giungla, uno stagno. Era la casa di una tartaruga, il cui unico sogno era quello di poter volare. Tutto il tempo pensava a un modo per realizzare il suo sogno. Era una bellissima giungla, con così tanti uccelli diversi che volavano nel cielo. Continuavano a volare e scendevano solo quando avevano sete. La tartaruga li guardava sognante, desiderando e sognando di volare. Oh, guarda quanto sono belli! Quanto sono felici di poter guardare il mondo intero da lassù! Sono così vicini alle nuvole! Possono giocare con loro ogni volta che vogliono! Vorrei poter volare! La tartaruga era diventata sempre più irrequieta. Voleva disperatamente andare lassù. Ogni giorno che passava, il suo sogno di volare diventava sempre più grande. Poi una volta le venne un'idea. Si affrettò verso l'avvoltoio e gli parlò del suo piano. L'avvoltoio era seduto vicino a un albero. Avvoltoio, amico mio! Ciao, tartaruga! Sono felice di vederti. Dimmi, come mai ti sei allontanata dal tuo stagno? Amico mio, sei il più forte dell'intera giungla! Puoi volare lassù in cielo, sopra tutti quanti! Hai ragione! Ma mi chiedo, perché sei così dolce con me? E perché parli di volare? Le tartarughe non possono volare. Cosa vuoi da me? Bene, ho un desiderio. E solo tu puoi aiutarmi a realizzarlo. Capisco. Va bene. Dimmi cosa desideri e farò del mio meglio per realizzarlo. Vorrei volare su nel cielo e guardare il mondo intero sotto di me. Ma com'è possibile? Hai bisogno di ali per volare. E se non lo hai notato, non le hai. Ecco perché ho bisogno di te. Puoi prendermi con i tuoi artigli e lasciarmi andare dopo un po'. Allora potrò volare e vedere il mondo intero. Ok, ma può essere molto pericoloso per te. Tranquillo, non mi succederà nulla. Potresti fare quello che ti chiedo? Per favore. Va bene, come vuoi. Per soddisfare il suo desiderio, l'avvoltoio prese la tartaruga con i suoi artigli e volò via. Salirono su e su nel cielo. Finalmente il desiderio di volare della tartaruga si era avverato. Guarda là, quanto è bello il mondo! Posso quasi toccare le nuvole. Ancora un po' e poi potrai aprire i tuoi artigli e volerò proprio come te. Ascoltami, tu sei una tartaruga. Non puoi volare. Questo non è giusto. Ti preoccupi troppo. Apri i tuoi artigli e guardami volare. Starò bene. Vedrai da solo. L'avvoltoio cercò di spiegarsi meglio, ma la tartaruga non lo volle ascoltare. Alla fine, l'avvoltoio si alzò e aprì gli artigli. Come previsto, la tartaruga iniziò a cadere. Wow! Posso volare anch'io! È il più bel giorno della mia vita! Oh, oh no! Io non sto volando! Sto cadendo! Aiuto, avvoltoio! Aiutami! Prendimi prima che io cada! La tartaruga era lassù grazie all'avvoltoio, ma senza ali come poteva volare? Cadde a terra con un forte tonfo. Oh, sto morendo di dolore. Che cosa ho fatto? Sono così stupido. L'avvoltoio ha cercato di avvisarmi, ma non l'ho ascoltato. Che fortuna avere questa corazza sulla mia schiena. Senza di essa sarebbe stato l'ultimo giorno della mia vita. La tartaruga comprese il suo errore. Si rese conto di essere diversa e di dover essere contenta di ciò che aveva. Tornò al suo stagno e visse sempre felice e contenta. Avete visto come la tartaruga ha pagato per il suo errore? Ma questo significa che non dobbiamo avere sogni? Certo che devi. Puoi avere quanti sogni vuoi, ma scegli sempre il sogno che vuoi seguire e sceglilo saggiamente. Non dobbiamo mai cercare di seguire ciò che fanno gli altri. Siamo tutti molto diversi. Ed è proprio questo che ci rende davvero speciali. Dovremmo sempre essere felici di quello che abbiamo.